versione di Oscar, di Oscar Giannino. This is the end. Buon pomeriggio cari ascoltatori della Radio 24, eccoci qui in diretta in questo giovedì 16:35 e 32 secondi, siamo in diretta di studio di Radio 24 di Milano e dico subito l'argomento del giorno. Oggi ci occupiamo ancora una volta di riscossione dei tributi e da questo punto di vista mi interessa sia se qualcuno di voi chiama per dirci come la pensa sulle parole che ha pronunciato ieri Befera in un'audizione parlamentare dove ha difeso i blitz, quelli del 2012, vi ricordate Courmayeur, vi ricordate Cortina, Portorotondo, e però il tema della puntata è in particolare su quello che succede su la riscossione dei tributi nella regione Sicilia e credo che in più puntate ci occuperemo del bilancio della regione Sicilia, dello stato patrimoniale, cioè del debito della regione Sicilia, perché sistematicamente, io ci torno da inizio del 2013 sul fatto che è una polveriera da tanti punti di vista, passa il tempo, la giunta Crocetta ha avuto uno sviluppo proprio su questo recentissimo, la settimana scorsa, con le dimissioni dell'assessore al bilancio Luca Bianchi e da quello che abbiamo capito sui giornali e quanto è uscito nell'informazione l'assessore era per una linea di serietà e il presidente Crocetta e i partiti hanno reputato diversamente, però prima di entrare in questo merito siciliano lasciate che vi dica che cosa penso io delle parole di Befera pronunciate ieri. Befera ieri ha fatto l'esempio, rispondendo a chi criticava i controlli a strascico, quelli porta a porta fatti pubblicamente con grande dispiego di forza nelle strade, come avvenne appunto a Courmayeur e a Cortina, dicendo: ragazzi, a Cortina lo Stato ha portato a casa circa 2 milioni di euro di imposte in più e su 173 procedure, le impugnative, i ricorsi sono stati solo 32. Io gli ho risposto stamattina con un articolo su un quotidiano nazionale, con tutto il rispetto per Befera e sottolineando che naturalmente i controlli sono una emergenza ineludibile in un paese a così alta evasione fiscale, che il problema non è quello di criticare i controlli, ma è di vedere come farli perché abbiano un buon esito nel ovviamente identificare evasori, ma nell'evitare contestualmente i danni all'economia reale, perché Cortina per esempio, a fronte dei 2 milioni di maggiori imposte dirette e indirette sul reddito e sull'IVA vantati giustamente ieri per molti versi da Befera in Parlamento, bisogna computare dall'altra parte, nell'altra colonna, i danni per un multiplo. Io ho sentito sistematicamente, ho interpellato i rappresentanti di alberghi, ristoranti, taxi, guide turistiche, impianti di risalita della zona e mi sono tenuto basso rispetto alle cifre che ovviamente loro esageravano un po', ma la stima minima è da 2 a 4 volte nei 3 mesi successivi per un flusso di turisti stranieri, di quelli ad alto reddito, ad alti consumi, chiamiamolo il lusso, che a quel punto dall'Austria, dalla Svizzera, dalla Germania, dalla Gran Bretagna, dalla Francia, invece che andare a Courmayeur sono andati altrove, sono andati oltre frontiera. In questo caso secondo me appunto Befera ha torto, invece dei controlli porta a porta che ottengono questi effetti, oggi l'amministrazione delle entrate ha tutto un convergere di banche dati in sinergia fino a ogni singola movimentazione bancaria. Gli abbiamo dato quest'anno, gli abbiamo dato una tale mole di strumenti che i controlli secondo me vanno fatti incrociando le banche dati e poi con verifiche personali in maniera tale che quegli effetti poi noi non li otteniamo, gli effetti negativi sull'economia reale. È la stessa cosa che è avvenuta quando si è dato un giro di vita con il governo Monti, vi lo ricordate, contro il lusso sulle barche e sulle automobili, abbiamo parlato già più volte, e poi danni all'economia reale perdendo migliaia di barche, i ricchi le barche le hanno portate in altre porti del Mediterraneo. Chi ci ha rimesso sono stati coloro che lavorano nei porti, negli alberghi, nei ristoranti e così via. Quindi sì ai controlli, ma senza controlli a strascico, perché altrimenti, oltre a quello che lo Stato guadagna in più, c'è una cifra maggiore di ciò che perde l'economia e di ciò che quindi poi lo Stato non incassa sulle giuste tasse, sulle attività economiche che vengono compromesse. Ma oggi iniziamo un focus sullo Stato molto preoccupante, a mio modesto giudizio, delle finanze pubbliche e della riscossione. Oggi ci occupiamo della riscossione, ma tenendo sullo sfondo lo Stato molto preoccupante dell'intera finanza pubblica siciliana. Era più di un anno fa quando io vi riepilogavo alcuni dati della finanza pubblica siciliana, perché stiamo parlando di un bilancio con fine 2012, mi ricordo la trasmissione, dicevo qua ci sono 18-19 miliardi di debito pregresso, ci sono fine 2011 ulteriori 7 miliardi di residui passivi, non si vede come questa, ci sono nell'attivo patrimoniale anche crediti a mio giudizio larghissimamente inesigibili, quindi un bilancio su quello, sulla cui parte patrimoniale secondo me una qualunque azienda sarebbe dichiarata fallita. Di giunta in giunta lo Stato decide in nome dell'autonomia speciale di far finta di niente, sta di fatto che la torsione finanziaria della Regione Sicilia è entrata secondo me nel 2013, in questo 2014, in un ulteriore stato di enorme preoccupazione, perché di 27 miliardi a cui più o meno come ordine di grandezza il bilancio della Regione Sicilia, diciamo la Regione Sicilia ne può spendere poco più di un quinto, e se tenete conto che un paio di miliardi se ne partono in stipendi, 900 milioni di interessi e così via, con quello che resta si può fare poco rispetto a tutte le altre sopravvenienze forestali eccetera eccetera, il cofinanziamento dei fondi europei e così via. Quindi la mia opinione è che lì c'è una polveriera nella finanza pubblica, non solo della Sicilia, ma visto l'impatto che sono queste cifre anche a livello nazionale, però per il momento si stende un pietoso velo, non so cosa dirvi, ma non si interviene. Detto questo, qualche giorno fa nuovo allarme, perché in questo quadro di grande preoccupazione a essere in ginocchio è l'intero sistema della riscossione, torniamo al punto, dei tributi in Sicilia, che è affidata a una società al 99% della Regione Sicilia e a propria volta, cioè la società che deve dare efficienza nella riscossione per alimentare anche con flussi di cassa un bilancio così ridotto male, è invece gravata da debiti questa società al punto tale da rischiare essa stessa di dover portare, se fosse un'impresa privata l'avrebbe già portati, i libri in tribunale. Ed è quindi con noi in questa prima parte della trasmissione esattamente un rappresentante dell'associazione che ha lanciato questo allarme, è stata la CISL, la CISL Sicilia, ed è con noi Maurizio Bernava. Grazie di essere con noi oggi pomeriggio, Maurizio. Grazie a lei, buongiorno. Ci può dire a chi non è siciliano, chi non ha presente la situazione, in cosa consiste con qualche numero questo stato molto grave di allarme di questa società di riscossione dei tributi della Regione Sicilia? Siamo in una situazione paradossale, perché bene fare un cenno di storia subito, perché la Sicilia è andata in controtendenza gli anni passati, c'era un partner, la vecchia società fino a qualche anno fa c'era 40% un privato, Montepaschi, la regione 60%, poi invece stranamente diciamo hanno fatto la scelta di fare prima tutto pubblico con l'Agenzia per le Entrate, Equitalia, adesso siamo dal governo Lombardo 2011, siamo si può dire al 99%, come diceva lei, alla Regione Sicilia. Tutta la regione. Quindi, tenuto conto che questa evoluzione nel tempo, la interrompo per aggiungere a chi è in ascolto e magari non se lo ricorda, la Regione Sicilia era quella in cui il sistema della riscossione data a privati nei decenni alle nostre spalle era quella con il più alto agio ai privati ed era uno scandalo nazionale all'epoca. Per questo fratelli poi successive evoluzioni. Esatto, i fratelli Salvo, ricordiamolo per chi non lo sa. Comunque adesso è del 99% della regione. E come sta sta società di riscossione? Ma sta messa molto male, noi è dal 2011 che denunciamo e chiediamo come sindacato, solo noi, un piano di ristrutturazione che sappiamo che deve produrre benefici sia nella gestione ma anche nella produttività, nei costi, chiaramente classico guaio siciliano per colpa di questa maledetta autonomia statutaria che per quanto riguarda la CISL non la sopportiamo più. Lei posso dirglielo, perché qui arrivano già i messaggi dei nostri ascoltatori, secondo lei non è tempo di ripensarla e magari abolirla perché le ragioni storiche sono da meno? Posso dire, dottore, la seconda attenzione, io la settimana scorsa ho parlato a lungo con Bonanni, il mio segretario generale, certo, di Sicilia, l'ho convinto, ma lui era già convinto prima di me, ne ho parlato anche a qualche sindaco importante di questa regione, metteremo in campo un movimento di opinione ma anche di iniziativa di legge o referendaria per abrogare lo statuto speciale del provincio siciliano, perché è diventato l'elemento che ci aumenta in termini di tassi di buon governo, di civiltà, ci allontana dalle logiche diciamo di modernità e di buona amministrazione e diventa una zavorra insopportabile. E questo è il caso della riscossione, è il classico caso, cioè è il cuore pulsante di una regione che gestisce la riscossione, invece di fare una gestione attenta, quindi è diventata una gestione tutta politica, perché avere il 99% della regione proprietaria significa che blocca, non solo non fa interventi per mettere in equilibrio i costi, la gestione, blocca anche la capacità operativa, perché è fortemente influenzata dai consensi, dalla logica del consenso politico. Cioè, capisce che quindi non ha fatto neanche, è sganciato da una logica nazionale, ma di impianto, penso anche addirittura alla gestione. È normale che la riscossione siciliana abbia un suo software informatico con procedure proprie e ha una struttura organizzativa ferma 20 anni fa, e quando invece per noi lo chiediamo 2 anni, è che ci fosse agganciato al sistema Equitalia, che ci fosse un management che non sia di nomina politica ma di controllo, ma che mette in campo l'unica operazione sui costi fatta in questi 5 anni, è stata fatta solo sul personale, perché abbiamo ridotto di oltre 400 dipendenti usando, insomma, il pensionamento incentivato, solo questo, ma sul resto non si è fatto nulla. Dai costi fissi, penso agli affitti d'oro, e i lavoratori e il sindacato siamo scocciati di apparire sui giornali sempre per motivi di scandalo, dai parcelle legali fatte, cioè non c'è una logica di buona azienda. È una regione come la siciliana, io condivido la sua analisi, che se lei se ne occupa nel 2013, nel 2012 abbiamo scritto allora al governo, presidente Monti, presidente Napolitano, per chiedere il commissariamento alla Sicilia, esatto, perché i conti sono fuori controllo. Portarmi in piazza, unico caso in Italia, 25.000 persone, primo marzo 2012, imprenditori, artigiani e sindacati insieme, lavoratori, per chiedere un intervento tipo commissariale, perché l'economia siciliana è fuori controllo, ci sono meno entrate, la crescita, la recessione, c'è un debito strutturato consolidato, c'è un eccessivo blocco sui costi, diciamo, la spesa corrente, i comuni sono costretti a aumentare le tariffe, quindi oltre le tasse regionali, addizionali al massimo, e in un sistema del genere la società Riscossione Sicilia viene concepita come una normale società controllata e partecipata, cioè per farne un uso politico, non per farne un uso strategico. Strategico come servirebbe, visto che qua i flussi di cassa, cioè soprattutto il margine sul bilancio per la spesa non è più, non ha più la capacità di reggere la spesa, per cui purtroppo poi la regione è impegnata, con tanto di quel personale eccetera eccetera. Questo è il mismatch nei conti, nella parte di conto economico. In quello patrimoniale secondo me ci sarebbe proprio da fare una bella discussione, perché secondo me non sta in piedi, ecco. Però su questo, ripeto, c'è anche una enorme disattenzione nazionale. Ora abbiamo i 60 secondi di informazione sulle strade. La versione di Oscar. Eccoci qua, tornati in diretta, 16:48, 25 secondi. Devo dire, i messaggi per quello che riguarda i controlli a strascico sono divisi in due, equamente, ma non mi sorprende, è sempre così quando si parla dei controlli fiscali. C'è chi dice che l'Agenzia delle Entrate non ha strumenti per fare controlli se non così. Guardate, non è vero, perché un'analisi comparata di quello che gli abbiamo messo a disposizione da metà degli anni 2000, quando c'è il cambio di marcia nel fare una lotta all'evasione seria, perché prima per decenni lo Stato ha chiuso gli occhi di fronte alle aree geografiche e a interi settori di imprese sull'evasione, questo è un fatto. Però da allora noi abbiamo messo a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, chiunque abbia la possibilità di andare a vedere nella sede SOGEI che ospita la centrale di Serpico, cioè il sistema che mette insieme in sinergia tutte le banche dati, è sottoterra e la sede della SOGEI è fuori il raccordo anulare a sud di Roma, si troverà con la più avanzata struttura di sala operativa che ci sia. Le forze armate se lo sognano, quindi non è vero assolutamente che non si può fare oggi una verifica per cluster e per dati incrociati e poi con verifiche individuali. Bisogna concentrarla nelle società dei capitali, questa è la radio di Confindustria, ma per chi conosce più dell'evasione italiana quantitativamente, nelle società di capitali da cui viene la grande evasione sui redditi, uno, né in alcune aree geografiche delicato in cui si concentra il più dell'evasione sull'IVA, e poi in settori e imprese e persone ad hoc, così si fanno le verifiche. Però l'altra metà invece la pensa così. Però io lo so che in questo ci si spacca sempre in due, e l'essenziale è continuare a parlarne. Abbiamo oggi sotto l'attenzione questo ulteriore problema della società Riscossione Sicilia, 99% della regione, che è al collasso per propri debiti, in una regione in cui la parte di conto economico non è in grado di sorreggere per il flusso di entrate gli impegni di spesa che ha, e in cui la parte patrimoniale di debito è larghissimamente non credibile, secondo me. E abbiamo come ospite esattamente Luca Bianchi, che solo la settimana scorsa si è dimesso da assessore al bilancio della Regione Sicilia, ora è alla testa delle relazioni internazionali del Ministero dell'Agricoltura. Grazie di essere con noi, Bianchi. Buon pomeriggio. Senta, sono stato troppo allarmista secondo lei nel fare la sintesi iniziale dello stato patrimoniale di conto economico di Regione Sicilia? Guardi, più o meno ci siamo, nel senso che il vero problema sono i debiti accumulati nel passato. Il tema principale sono 5 miliardi e mezzo, che poi quello è il tema principale, di residui attivi inesigibili. Sì. Cioè di che stanno a bilancio tra le entrate e in realtà non si incasseranno mai. Ecco. Questo è la fotografia di bilanci che io ho denunciato appena arrivato, che prevedevano mediamente ogni anno tra i 700 milioni e 800 milioni di entrate di valorizzazioni di patrimonio immobiliare. Cioè si chiudeva ogni anno il bilancio mettendo tra le entrate 700-800 milioni di vendita di immobili che sistematicamente naturalmente non ci sarebbero mai stati. Ecco. Quindi l'abbiamo fatto e abbiamo eliminato le entrate, le nuove entrate false. Il bilancio 2013 è un bilancio fatto secondo i crismi di regolarità del bilancio, perché questo è il problema, cioè i bilanci non erano veri fino all'anno scorso, però chiaramente questo ci permette di chiudere un 2013 in avanzo di bilancio, addirittura abbiamo tagliato circa un miliardo di spesa, però questo ha creato una tensione politica, come lei ha sintetizzato rapidamente, che ha reso peraltro il mio lavoro negli ultimi mesi che sempre più complicato. Senta, ci spiega un'altra cosa. Primo, se ci dà la sua opinione sullo stato comatoso della società riscossione tributi e come mai si è arrivati così, visto che oltretutto c'è bisogno di flussi di cassa. La seconda cosa che le chiedo è qui a nome delle imprese siciliane. Da una parte abbiamo letto che rispetto ai soldi stanziati dal governo precedente, la Sicilia per la quota di debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, la Sicilia non è stata in grado di spendere nulla dei 953 milioni che era stata affidata alla Sicilia, e contemporaneamente, proprio vicenda centrale delle sue dimissioni, c'era l'idea di accendere un mutuo di 1 miliardo esattamente per procedere a questo con Cassa Depositi e Prestiti. Come stanno insieme queste due cose? Ma cominciamo da riscossione. Stanno insieme. Allora, riscossione, la situazione è quella che descriveva Bernava. Io l'ho detto nella conferenza stampa in cui mi sono dimesso. La situazione di riscossione è esplosiva, nel giro di poche settimane rischia di portare i debiti in tribunale. Questo è il risultato di una gestione scellerata nel corso degli ultimi anni. Parliamo di milioni di euro di consulenze giuridiche, con addirittura diciamo, si aprivano cartelle per 20 euro e si facevano ricorsi che costavano centinaia di euro in termini di spese di avvocati. Questo era un sistema sistematico che ha portato all'esplosione del debito. Noi siamo intervenuti con un piano industriale, ovviamente, che richiede il tempo, che tende all'equilibrio, ma c'era il problema dei debiti pregressi. L'anticipazione finanziaria, Cassa Depositi e Prestiti, poi in realtà era il Ministero dell'Economia, che ha fatto tutte le regioni italiane, di 1 miliardo di euro, in linea con quanto fatto dal Lazio, dalla Campania, dal Piemonte, dall'Emilia Romagna, permetteva innanzitutto di saldare i debiti verso fornitori che aggirano intorno ai 40 milioni di debito, che vuol dire imprese che chiudono perché la pubblica amministrazione non li paga. E questo provvedimento, che prevedeva peraltro un prestito al 2,8% rispetto agli interessi di mora all'8%, è stato bloccato per 6 mesi in assemblea regionale, perché si continuava a dire non possiamo indebitarci, quando noi in realtà i debiti li pagavamo, certo. Perché avevamo un'anticipazione per saldare debiti già a bilancio, non è che chiedevamo un nuovo debito, lo saldavamo debiti che comunque dovranno pagare. Quindi questa mancata iniezione di liquidità rappresenta un problema di allarme. Rispetto, le dico, noi con il Ministero dell'Economia abbiamo concordato ogni passaggio, noi avevamo tendenzialmente raggiunto l'equilibrio, anzi addirittura nel 2013 chiudevamo in equilibrio sull'andamento dell'anno. Il pagamento del pregresso necessitava anche un'iniezione di liquidità, questo però voleva dire continuare in un'operazione di risanamento coerente con necessità di assumere atti conseguenti. Questo vuol dire un'assunzione di responsabilità della politica siciliana che non si è voluto assumere, anche perché, come diceva Bernava, dietro all'autonomismo in realtà si nasconde quello che è stata una, cioè si erano abituati che si arrivava a Roma e si improvvisamente staccava un assegno da 700-800 milioni, da 1 miliardo per coprire, perché non si sa perché l'autonomia li portava al di fuori dalle regole del bilancio. Ecco, cioè rendeva l'autonomia possibile credere che si possano falsificare i bilanci. Scusi, no? Un'autonomia, ecco. Comunque devo dire che molte regioni italiane non sono molto diverse. Questo andiamo a vedere i bilanci di molte regioni, lei lo sa. Non stiamo colpevolizzando solo la Sicilia. No, ma io lo dico da non siciliano, quindi lo dico anche per rispetto di una terra che meriterebbe molto meglio, insomma. Però questa forma di autonomismo col cappello cappello in mano, che diciamo che garantiva, secondo me deve finire, cioè è ovvio che bisogna andare sulle regole, io poi non entro sulla questione costituzionale, però le regole devono essere uguali in tutte le regioni italiane. Noi abbiamo provato a fare un'operazione in cui il bilancio della Sicilia era paragonabile, era leggibile come il bilancio delle altre regioni. Questa linea non è molto piaciuta, devo dire. Dove, naturalmente, per chi ci sta ascoltando, innanzitutto si parla dei criteri contabili omologhi e omogenei per capire diversi bilanci, perché in realtà se i criteri contabili per l'isola sono diversi, capite che si scelgono quelli fatti apposta perché le cose che contano davvero non siano chiare o magari non ci siano nemmeno nei bilanci. Allora, Bernava, posso chiedere una cosa fuori dai denti, pochi secondi, ma come se ne, a breve, secondo lei, come se ne esce? Crocetta, che non chiedo giudizi politici, le chiedo su questo cambio di regole e da adottare dei criteri di sostenibilità finanziaria in Sicilia. Lei ha dato un giudizio politico, ma a breve che cosa può succedere, secondo lei, Bernava? Guardi, io credo che a breve si rischia veramente una situazione pericolosissima, lo sa anche Luca Bianchi, cui lui ha pagato il fatto che ha usato il linguaggio dell'economia e non quello della politica. Noi la CIS siamo molto critici con Crocetta, perché si è fatto prendere prigioniero dalle vecchie logiche politiche invece che puntare sull'economia. E l'economia significa mettere subito in campo un piano di risanamento, che vuol dire recupero, razionalizzazione e ristrutturazione delle società, degli enti locali partecipate grazie alla autonomia siciliana, se volessero utilizzarla, e mettere in campo economia. La legge per pagare i crediti delle imprese ha la stessa logica di mettere in campo un piano straordinario ora anticrisi. Penso alle allora, Bernava e Bianchi, allora, io vi ringrazio, devo dire che sono molto scettico sul fatto che possa avvenire, ma ciò non toglie, noi siamo qua. Avete sentito voci critiche siciliane di chi si è impegnato in Sicilia, quindi per evitare ogni accusa di nordismo, ma questo è un grande problema. Continuate con Radio 24, appuntamento come a domani.